Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Questa criminalità sfibra il tessuto della nostra società, mette a repentaglio la democrazia. Gli episodi di Desio, di Bordighera, che cosa sono se non attentati alla democrazia? Sono attentati alla democrazia le infiltrazioni mafiose e allo stesso tempo sono freni alla crescita del paese, nei mancati investimenti al sud, nelle alterazioni della concorrenza al settentrione. Parola del governatore di Banca Italia, Mario Draghi. Partiamo dai numeri questa settimana in Storiacce, dai numeri del Fondo Monetario che stima in 118 miliardi il riciclaggio complessivo delle mafie e dai numeri di Banca Italia che calcola in 20 punti di PIL mancanti l'effetto della criminalità sulla crescita di due regioni come Puglia e Basilicata. Due numeri che compongono un punto di partenza. Le mafie, come un vampiro, vivono del sangue succhiato dalle terre che attaccano e con quel sangue fanno affari in mezzo mondo. Sempre in Italia, gli investimenti sempre più all'estero, da Sicilia, Calabria e Campania, Cosa Nostra, Camorra e soprattutto 'Ndrangheta hanno raggiunto ormai quasi tutti e cinque i continenti per un Made in Italy che non conosce crisi, se è vero che negli ultimi 10 anni, calcola Radio 24, circa 500 persone sono state arrestate in giro per il mondo, molte di più invece sono quelle che l'Italia l'hanno dovuta lasciare anche per la mancanza di prospettive, uccise dalle mafie. La conferma dell'espansione non solo sul piano del traffico internazionale stupefacenti, ma proprio sul piano dell'associazione mafiosa dell''Ndrangheta anche in altre regioni fuori dall'Italia. Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Reggio Calabria, ha coordinato l'inchiesta che ha portato a 41 arresti tra Italia, Canada, Germania e Australia. Un'inchiesta, solo l'ultima, che ha confermato come l''Ndrangheta sia la più ricca e potente tra le mafie nostrane, anche grazie alla sua disponibilità finanziaria illimitata che le ha permesso di colonizzare, per dirla con le parole della Direzione Nazionale Antimafia, sia il nord del paese, con la Lombardia in testa, sia quelle altre regioni del mondo dove, insediandosi, ha importato pure regole e violenze della casa madre. A scrivere la relazione anche il sostituto procuratore Maurizio De Lucia. Tutte sono presenti un po' dappertutto nel mondo, pensiamo ai flussi migratori dei primi 900, dice indubbiamente la forte radicalizzazione prima di tutto, ma non solo, della mafia siciliana nella costa est degli Stati Uniti. Dopodiché però presenze della Camorra e anche dell''Ndrangheta le registriamo lì da tanto e tanto tempo. Oggi non c'è dubbio che la mafia delle tre nazionali più, diciamo pure, internazionalizzate è sicuramente l''Ndrangheta, sia perché economicamente è ancora molto forte nonostante i colpi che le sono stati inferti dallo Stato nei tempi più recenti, sia perché è radicata dall'Australia, al Canada, in qualche misura anche negli Stati Uniti e molto anche in Europa, pensiamo alle vicende tedesche dalla strage di Duisburg in poi. Quindi inizialmente gli Stati Uniti, poi il Sud America e con l''Ndrangheta sia il centro dell'Europa che l'Australia. Penso all'Africa o penso ai paesi asiatici. Ci sono stati segnali investigativi che attestino presenze di mafie anche in questi continenti? Per l'Africa è ancora presto. Le mafie seguono in qualche misura i tassi di sviluppo dei paesi e dei territori. Per quanto riguarda l'area del sud-est asiatico, anche lì sono oramai storici i rapporti che Cosa Nostra intratteneva con i grandi trafficanti di eroina, pensiamo a Kubaikin che fu processato anche a Palermo all'inizio degli anni Ottanta, frutto delle investigazioni di Giovanni Falcone. Oggi, come dire, ma questo non è tanto un interesse a insediamenti mafiosi quanto della mafia nostrana di trattare con le organizzazioni criminali estere, non c'è dubbio che ci sono forti rapporti con l'America Latina e col mondo delle organizzazioni criminali colombiane, soprattutto dall''Ndrangheta, perché, ripeto, nonostante i colpi inferti, registriamo che in questo momento è certamente la struttura ancora meglio organizzata e più attiva tra le mafie nostrane. rientrano alla base per chiedere ordini, riproducono altrove la gerarchia dei clan. L'export delle mafie da secoli va avanti così e funziona. In Australia, tra i 7.000 calabresi emigrati, il nucleo italiano più cospicuo, disgraziatamente, leggiamo nell'ordinanza del GIP Regino che ha mandato in carcere 41 persone, si è diffuso anche il peggior modello criminale nostrano, l'andrangheta. Andrangheta che in Australia, dove in passato aveva ucciso il vice capo della polizia e il leader dell'opposizione, ora aveva eletto un suo uomo, Domenico Vallelonga, alla guida di una città, come ha ricostruito l'indagine a cui ha lavorato anche il procuratore aggiunto Michele Prestipino. Siamo in presenza di un meccanismo per il quale l'organizzazione mafiosa dalla propria terra di origine si espande con un modello particolarmente originale, crea altre strutture della stessa organizzazione in luoghi lontani migliaia di chilometri, e quelle strutture, quelle articolazioni iniziano a vivere in quei posti di vita propria, però strettamente collegati alla casa madre, dalla quale prendono disposizioni, ordini e dalla quale rispondono di tutte le scelte strategiche che vengono compiute. Ecco, l'originalità dell'andrangheta da questo punto di vista è proprio nel rapporto tra la casa madre e le proiezioni estere, dove decine di soggetti, alla stessa stregua di quello che succede in Calabria, si organizzano in strutture e articolazioni che ripetono esattamente il modello organizzativo che esiste nella casa madre. Ad esempio, alcuni degli indagati di quest'ultima inchiesta dicevano: da Sydney all'Australia noi qua non possiamo operare, se non è buono là non è buono neanche qua. Per dire che se su una persona pende un veto stabilito nella casa madre, quindi a Reggio Calabria, questo veto deve rimanere, deve sussistere anche a migliaia di chilometri di distanza. Ma tra i vari satelliti esteri c'è qualcuno che pesa di più rispetto agli altri? Abbiamo visto ad esempio che all'interno dell'Italia la Lombardia ha un peso, diciamo, specifico, di sicuro di maggior rilievo rispetto alle presenze dei clan calabresi in altre regioni italiane. Certo, probabilmente per tradizione è possibile che in Germania ci sia una presenza più massiccia di queste strutture rispetto ad altri territori, però ecco, non è stilabile una classifica di importanza così come si è tentato di fare in Italia, dove sono diverse le ragioni che fanno pensare a una predominanza della Lombardia, cioè sia un problema di densità criminale, cioè sia un problema di maggiore concentrazione degli affari, degli investimenti, della circolazione del denaro. In Lombardia l'infiltrazione delle cosche avanza. Più dell'80% delle denunce per associazione mafiosa in Lombardia ha riguardato individui provenienti da Sicilia, Calabria e Campania, confermando che al centro-nord la presenza mafiosa rimane un fenomeno di importazione. Però la criminalità locale appare coinvolta in molti reati, pure tipicamente riconducibili al crimine organizzato di stampo mafioso, come l'usura, il riciclaggio, le estorsioni. La Lombardia, con il 20% portato al PIL italiano, calcola il governatore Draghi, e con pari percentuale di segnalazioni di sospetto riciclaggio, che nel 2010 in tutta Italia sono state 37.000. Anche attraverso i nodi cruciali degli istituti bancari e dell'accesso al credito passa una parte sempre più rilevante della lotta al crimine organizzato, se è vero che pecunia non olet, e se è vero che le mafie, come le indagini milanesi dimostrano e come la Direzione Nazionale Antimafia sottolinea, sono diventate più sofisticate nelle tecniche di riciclaggio. Ora in Germania e in Belgio, come disse in un interrogatorio del 2002 Antonino Giuffré, pentito di mafia, voi trovate gruppi che non sono più quelli di una volta, gli emigrati con la valigetta di cartone. Questi non hanno la valigetta, ma la 24 ore piena di soldi. Non stupisce allora vedere anche Francoforte, il cuore della finanza tedesca, tra le città che la Procura Regina indica tra quelle a più forte presenza di 'ndrangheta, insieme a Singen, Rilasingen, Radolfzell, Ravensburg, Engen. 900, secondo il Bundeskriminalamt, sarebbero gli affiliati alle cosche, di cui in un rapporto si scrivono nomi e cognomi, letti da Petra Reschi, corrispondente della Zeit. Il rapporto descrive le loro attività, che sono gran parte riciclaggio di soldi attraverso ristoranti e alberghi. Proprio un rapporto dedicato unicamente al clan di San Lucas, questo clan Peleromeo, quel più potente in Germania, a cui appartengono solo a questo clan Peleromeo di San Lucas 61 ristoranti in Germania. Se la 'ndrangheta ha puntato sul mercato immobiliare dell'est Europa, la Costa Azzurra invece è stata a lungo terra di riciclaggio della camorra campana, approdata poi sempre più in Spagna, divenuta riparo di latitanti, porto di boss in fuga e tappa intermedia verso i narcotrafficanti sudamericani. Qui, tra gli altri, fu catturato anche Salvatore Zazzo, reggente dei Mazzarella, arrestato da Gianfranco Scafuri, colonnello dei Carabinieri di Napoli. Zazzo Salvatore è stato preso nel centro storico di Barcellona, a 100 metri dall'ingresso della Sagrada Famiglia. Lui in Spagna era conosciuto, si muoveva bene. La Spagna oggi rappresenta in effetti il crocevia europeo delle attività collegate al traffico di sostanze stupefacenti, grazie soprattutto anche alla presenza degli appartenenti ai cartelli sudamericani. Gli spagnoli, infatti, sono chiamati i perdenti della faida di Scampia, che hanno trovato riparo nella penisola iberica, come gli scappati per antonomasia in Cosa Nostra sono gli Inzerillo, la famiglia su cui ha pesato per anni il veto dei corleonesi di Totò Riina a non mettere più piede in patria, anche se poi inchieste di un paio d'anni fa accertarono le trattative per il ritorno in Sicilia degli scappati. A quelle indagini lavorò allora a Palermo anche Maurizio De Lucia. Le più recenti indagini, l'ultimo grosso lavoro, il processo è ancora in corso, l'operazione denominata Paisan Blues, rivelano che contatti attivi, soprattutto nel campo dei finanziamenti, quindi del traffico di denaro, quindi del riciclaggio, sono presenti appunto fino a oggi nei rapporti fra la Cosa Nostra palermitana e la mafia degli Stati Uniti. Esiste una rete di protezione, una rete di affari e anche una rete di investimenti che anche Cosa Nostra ha tenuto in piedi non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Una rete che rimane anche con l'ultimo superlatitante, che è Matteo Messina Denaro. Non c'è dubbio che si inserisce in un contesto reticolare, quantomeno europeo, in cui tutta Cosa Nostra cerca e prende servizi che le vengono offerti dagli affiliati che non si trovano appunto nel territorio d'origine ma all'estero. Non parlo di lui, ma ricordiamo ad esempio, parlando della camorra, che molti camorristi sono stati catturati da indagini internazionali presenti in Spagna o presenti in Francia, e non dimentichiamo dove Bernardo Provenzano si è fatto operare. Bernardo Provenzano si fece operare a Marsiglia, in Francia. I grandi capi usano sì le loro reti internazionali, ma alla fine si nascondono sempre a casa loro. Oggi, a conclusione di questa puntata di Storiacce, voglio rivolgere a voi una domanda. Secondo voi, quanto si ha la percezione del danno concreto che le mafie infliggono alla crescita economica delle nostre regioni? Se volete, scrivetemi cosa pensate anche su questo, sulla nuova pagina Facebook di Storiacce, e da lì entrate anche sull'audioblog di Storiacce. Ciao a tutti, a sabato!